ogni anno lo vede. Nelle prime due sono in cinque, tre femmine e due maschi. Terroni? Lo chiedono loro, ma è come se ne chiedesse loro la conferma. Incivili? Sì, siamo calabresi. Rispondono decisi e se la ridono soddisfatti. Nella terza sono solo in tre, ma la prevalenza femminile continua. Malavitosi? Sì, siamo calabresi e ridono. È la pubblicità della regione Calabria, il trionfo dell'orgoglio calabro. Coerentemente allora, lo slogan è: gli ultimi saranno i primi. Che gli ultimi saranno i primi lo dice Gesù Cristo nel Vangelo di Matteo 20:16. Lo dice nel concludere la solita parabola, piuttosto oscura per non dire di peggio. Allora, la storia è questa, no? C'è il padrone di una vigna che ha bisogno di manodopera per la vendemmia. Va in piazza di buon mattino e ingaggia un gruppetto di quelli che il Diodati, il traduttore, con metafora pre-CGL, diciamo, chiama scioperati. Gli promette una certa cifra per la giornata di lavoro e se ne va. Quelli vanno a lavorare, ma il padrone ogni tanto torna in piazza e assume altri scioperati. Perfino quando ormai sera ne ingaggia di nuovi. Poi, finalmente, con il buio e con la fine della giornata lavorativa, arriva il momento dei pagamenti e il padrone decide di dare la stessa cifra a tutti, sia quelli che hanno lavorato l'intera giornata, sia quelli che hanno lavorato sì e no un'oretta. Va da sé che i primi si secchino, e lo dicano anche, ricevendone in cambio una severa reprimenda. Ma come? Avete avuto quanto pattuito? Avete avuto quanto pattuito? E se io ne ho voglia, do quel che mi pare a chi mi pare. Il vostro è un occhio maligno, mentre io sono buono. Sarà anche buono, ma poco avveduto. Vorrei vederlo l'indomani a parabola finita come andrebbero le cose nella vigna. Tuttavia Gesù sembra far sua la parte del buon padrone. Prende spunto dalla frase degli operai scontenti: ma come, gli ultimi hanno lavorato solo un'ora? E spara due sentenze, due delle sue: gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Che non rappresenta affatto quanto ricavabile dal racconto, perché lì tutti hanno ricevuto la stessa paga e dunque non ci sono né primi né ultimi, ma uguali, nonostante non sia condiviso affatto il criterio in base al quale questa uguaglianza è stabilita. E la seconda è: perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Dove proprio non si riesce a capire perché eletto dovrebbe essere l'inveterato scioperato, mentre l'obbediente poveretto che fa una fatica della Madonna debba essere anche trattato a calci nel sedere. La settimana scorsa l'Oliva si autoflagellava pubblicamente per aver usato da innocente lettore di fumetti la parola squaw, che oggi, a quanto sembra, per i politicamente corretti che abbondano in questo mondo politicamente scorretto, a quanto sembra un insulto. Vorrei ora riconferirgli il permesso di continuare ad usarla come ho sempre fatto, e ciò per almeno due buoni motivi. Due. Il primo è che le origini storiche della parola sono davvero innocenti. Squaw, nella maggior parte delle lingue di famiglia algonchina da cui proviene, sembra che volesse dire semplicemente donna. Soltanto in Massachusetts, nella lingua dei Massachusetts, senza la doppia V finale, assumeva il significato leggermente diverso di giovane donna, che per quanto proprio un insulto non era e continua a non esserlo. E allora? Da dove vengono i sospetti e il tabù successivo? Vengono dal fatto che nella comunità dei parlanti Mohawk, la cui lingua, attenzione, apparteneva alla famiglia dell'Irochese e che, guarda caso, erano nemici acerrimi dei Massachusetts, la parola squaw stava per diciamo l'espressione più prosaica possibile per definire la vagina. Sembra certo, tuttavia, che i coloni inglesi del Massachusetts nei primi anni del 600 abbiano imparato la parola dal linguaggio locale, sarebbe strano il contrario, e che in quanto tale questa parola ha poi proseguito la sua carriera nel dizionario di quelle generazioni che, parlando sono giunte fino a colonizzare i fumetti della nostra infanzia. Dunque, chi ne sostiene la scorrettezza politica dovrebbe riuscire a dimostrare che la sua seconda fonte è riuscita a prevalere sulla prima, il che quantomeno è improbabile. Il secondo motivo per cui possiamo serenamente e democraticamente parlare di scuo è più teorico e attinge la consapevolezza che abbiamo raggiunto intorno al fenomeno linguistico. Il significato delle parole è sempre e comunque inscindibilmente connesso con il contesto in cui la parola è usata. L'analisi di un significato può essere portata a termine, quando ci se la fa, ben inteso, in sincronia e ben difficilmente in diacronia, perché nel tempo, perdendo il contesto, si perdono condizioni essenziali del processo di comunicazione. Solo il parlante sa, in definitiva, se ha usato una metafora o no. È per questo, no, che uno può, che so, andare a Sanremo e cantare "Mi sono innamorato di una stronza" senza che nessun custode della correttezza politica abbia a che ridire. Ed è per questo che l'infallibile manuale per far dormire il vostro pupo, a firma del noto puericultore Ron Bieber, alias Biberon, può essere tranquillamente intitolato "Fai la nanna, bastardo". L'egualitarismo evangelico vacilla. Gli ultimi di Gesù non sono più la classe oppressa tutta, ma soltanto alcuni suoi rappresentanti più furbi degli altri. Il criterio della correttezza politica di Matteo sembra dettato da Stalin. Come vacillano le ragioni dell'orgoglio calabro? Non solo perché rimane quantomeno dubbia la natura della classifica in cui dichiarano di essere oggi ultimi e domani primi, ma perché, come ogni comunicazione che nasconde presupposti ideologici, ridonda in qualcosa. Infatti non tutti i cinque ragazzi che ridono festosamente delle categorie più viete riservate loro da un giudizio politicamente scorretto, terroni, incivili, malavitosi, non tutti questi ragazzi sono uguali. Al di là delle ovvie differenze somatiche, per esempio, la terza ragazza, quella in fondo a destra, esibisce un apparecchio ortodontico, ovvero l'imperfezione che democratizza, che rende tanto umani e non più modelli dell'empirio pubblicitario, l'imperfezione di cui andare orgogliosi come della propria calabresità. Sembrerebbe un caso di ipercorrettismo politico che viene peraltro confermato vigorosamente quando la comunicazione si affida alla formula dei tre anziché dei cinque ragazzi. Una delle femmine e il maschio portano l'apparecchio correttivo dei denti. 2 su 3, 3 su 8, al di là dell'eccesso statistico, la calabresità sembra più un problema che un motivo di vanto. E ancora una volta tramite la rappresentazione sociale dell'ortodonzia, il tentativo è quello di far scivolare inavvertitamente da una sfera all'altra, dall'orale alla morale.